Luca è meglio, molto sì. Bruscia, bruscia. E beh, Claudio. Vabbè, grazie, com'è? Ehi, com'è? Scusate, me la vedo nella TV, sono spenta. Sì, la stessa cosa stavo facendo io, invece quel che ho fatto. Ma sono entrato un po' qua dentro. A vedere chi c'era, ma non venne nessuno. Oh, mi ha dato la segna, si chiuda, la segna, si chiuda. Mi ha sentito questo che stava fischiando. Luca non c'è perché gli ho mandato un'email, mi ha detto che non c'è in giro. Neanche Tonino, Emanuele, sono a fare una visita fuori Sassari. Oggi non c'è nessuno. Carnaggio mi fa, ma mi accendo un po' il computer. E niente. Domani se mi arrivi la volta mi andando in giro. Fai bene, fai bene. Ma lo c'è elettrica o benzina? No, elettrica, l'ho presa dalla Gran Bretagna. E mi arriva dal Regno Unito. E sono qui a un mese a sistemi. Per la scusa di questo Covid. E mi hanno mandato l'email e sta ritardando. Vabbè. Abbi un po' di pazienza. I trasporti sono ancora di lento. E speriamo che non rallentiano di rodutto, Buru. Speriamo di no. Adavimo. Per carità. Arma come vostro gas è diretto. Vabbè. Se ti piace la moto elettrica, a me non mi piace. Né la macchina elettrica né la moto elettrica. A me piace benzina e gasolio, così a me ci paccate boh come piace. Invece già sono bene, anzi mi sono convinto di se pigliarmi la macchina pura elettrico. Invece già sono belle, funzionano bene, io mi guardo un po' di pubblicità, anche col computer, già funziona. No, ti ripeto, sono cose che non mi piacciono a me. Va bene. E oggi non dico peccato, freschetto. Questo venticello è freschetto, però è anche fastidioso. Allora, mi sono cacciacanato, ma tutto un altro mi sa berra di capo questo vento. E continuo qua tutta la vita, stamane ha cominciato l'MLM, vento ravento. Vento fresco, va bene, meglio di su gatto a foso, tutto appiccicoso, è meglio così, grazie. Troppo caldo stava facendo. Quello sì, vabbè, poi anche questi giorni la chiedono tutti chi si incendi, che hanno i bosco, chi si assassini, chi l'hanno i bosco. Era anche per quello tutto quel caso, hai visto quanti incendi c'erano in tutta la Sardegna? Fanno schifo e a chi se ne aveva tagliato le mani. Invece non aveva tenuta, a chi c'è il problema? O se non l'abbia butto il fuoco io, a Eddie, l'abbia butto un bidone di benzina e l'abbia cotto un lumino, ecco il fuoco, l'ho pulito il fuoco, te? Non fanno niente no, hai capito. Maledetti cazzi, oltre al danno, tutto ciò che causano, animali morti, quello, quell'altro, vabbè. E comunque le temperature non ve alte, adesso si sono abbassate un po'. E che poi il verde crea l'ossigeno e gli ignoranti vanno a ammazzare tutti. Già con tutti quei disboscamenti che hanno fatto, l'altro giorno ho visto un documentario non so quanti milioni di ettari, tutto disboscato, praticare un petrolio, tutto pozzo di petrolio, e si sono rimaniate tutte le foreste, assassini. Quello è business, lavoro, grazie, business e lavoro. Vabbè, ma cercano dove non fai danno, cazzo. Hanno disboscato non so quanti ettari, ettari di boschi, e tutti gli animali non li conti. E devi rimanere pure di non i boschi. Boh. Io lo so. E già avete voglia, purtroppo. Anche queste cose ci sono da dire, da fare. Boh. Non è che dobbiamo pensare solo all'uomo, devi pensare anche a tutta la gente che c'è su questo mondo, anche gli animali. Se gli animali ci sono, vuol dire che c'è per lo scopo suo, sempre una ragione per il mondo, anche gli animali. Non è che devi campare solo l'uomo. Lo so, grazie, però cosa vuoi fare? Non puoi farci niente. È così e boh. E Gio Maria non si è sentito. No, l'ho acceso poco fa io. Sarà un quarto d'ora fa. Ce l'ho qua, c'è il tavolo. Avverso c'era qualcuno. A chi mi ha il telefonino? C'era una contro Briatore, l'ha fatta a pezzi. Per il fatto di che sta facendo la Sardegna a pezzi e i Sardi a pezzi. Miserabile. Quello è un porco. Quello ci deve ricordare che i soldi li ha fatti in Sardegna. Animale che non è altro. A vale criticare della Sardegna. Beh, a chi l'hanno fatto sarrare un locale, lo sindaco di Arzachena. E come ti fate di non venditi un'ampulla di va minerale? 250 euro. E non l'ha fatta di là. E non che Sardegna l'ha fatta. Su, miserabile. E poi abbiamo detto che viene il dipendente, i sardi, i dipendenti che c'ha se li porta da fuori stesso, a chi anda a dirgli di balli, sono tutti continentali i dipendenti che vengono, chi mi costa smeralda, pensavate a chi ci viene a cogliere i fusi, e pure gli argini, e loro gioca che quando andate a fare i consegni lo vedevo, e li sentivo parlare, oppure se chiedevo qualche informazione anche se puriani tutta gente di fuori, che cazzo di sardi, ma è dove uscì, è fatto male, a me non è mai piaciuto, non ho viscido, cazzo viscido, ma di chi si viscidi proprio, per carità, vale meno di zero. Solo che va a ridinarsi, credi da sera, padrone. La violiata va e poi il gatto l'abbiamo fucilato. Cazzo, ma con tu mio, quando vieni con lo iotto, la dia con un siluro, con un bazooka, dalla spiaggia, avevi visto un ce l'abbiamo mandato qui. Sì, è a Monte Carlo, dove va. Lui abita a Monte Carlo, capito? Qua viene solo a fare le vacanze, come dice lui. È in Casciadina, quel locale che c'ha, è locale per miliardari, no? È locale bannoio. Ce lo so già, ce lo so. Ma mi sa tanto che si è appizzicato un burueto, un gofis. Tutte le saiette che erano i tipi, si sono contagiati uno con l'altro, erano tutti continentali. E poi non hai sentito che cosa hanno letto l'altra giornata? Ah? Adesso c'è una riunione del Consiglio regionale straordinario per smentire questa cosa. Ci stanno accusando che siamo noi che abbiamo contagiato a loro, capito? Che è la Sardegna che ha contagiato il Covid ai continentali. Invece ci sono giunti Eddi già, tutti asintomatici, ed erano tutti ammontonati, tutti bacendici e abbracendici, bastati. Già ho sentito, sono loro che ne l'hanno portato qua e rompono i coglioni dicendo che se l'hanno preso qua in Sardegna, loro l'hanno portato di qua, chi si miserabili, un iotto come ti cazzo, sono giunti in aerei privati, Dile alla Riccardo, vedi chi su cazzo di malanno. Speriamo che cribbano, così imparano. Dalla Croazia, dalla Barcellona. Chi è? Buonasera. Buonasera. Siamo portati dalla Croazia alla Barcellona, il corone. Loro l'hanno portata in Sardegna, che qua stava diminuendo, addirittura a Cagliari c'era solo un caso, mi ricordo, a Sassari lo stesso, a Nuoro Romatesi. Loro l'hanno portato. No, l'hanno dichiarato pure che quelli che in questione sono portati, erano a Barcellona, in Croazia, una cosa così, capito? Tutta quella gente che è andata in quei posti, adesso che stanno rientrando, sono tutti malati. Ciao Claudio, c'è, avanti Claudio. Basta, arriva qua, non so chi sia, chi sei? Ah, è Claudio, so come ho portato, sono Cristian, sono portatino piccolino. Ah, Cristian, sì. Vabbè, io non sono a casa, capito, sono in campagna, quindi ti sento un po' bassino, tu mi senti? Io sono benissimo, io sto facendo con un vato, me. Sono portatini di quelli della Baofeng. Tutti che si... che si abusivi. L'ultimo che c'è Baofeng siete, ragazzi. Mamma mia, Radio Verga. Sono regalato, l'altro. Sono andato a fare uno migliore, dai. L'ho già detto, Graziale, non lo sento, lo sento a tratti. Che gliel'hanno regalato, ha detto quello. Già se ne procura uno migliore. No, io sto usando... un GT3 TP più grande del boyfriend di quello piccolo nero, io ce l'avevo così, l'ho venduto e uso questo funziona più forte. Quelli sono un po' così, sono anche molto delicati, hanno un sistema roba cinese, eh. Vabbè, grazie, vai, rimango in ascolto un attimino che mi faccio due cosette qua, che mi ha chiamato mia moglie, so, devo pulire anche i fagiolini che devo mettere a bollire questa notte, dobbiamo fare l'insalata. Già ci sentiamo dopo, dai, riprendi con Cristian. Ehi, hey, you, riprendi Cristian. Mi sembra di aver capito che sei alle punti, tutto a tratti stai uscendo. Sono a Punti Mudi, sono stati due. Ah, Punti Mudi sì, ma a che altezza sei? Sono stati due al chilometro. Non ti corro, tutto a spezzettoni. No, vabbè, no, che no, dici, ma tu sei fatto. Non riesco a sentirti, ti sento a pezzettini, tutto rumoroso. Dai, riprendo dopo, dai, che sono bambini a fianco. No, stai gracchiando, non ti sento. Se sei in movimento è difficile con quello. Al limite ci sentiamo dopo, quando sei più vicino. Ok, dai, a dopo. E a dopo.